L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e bentornati all'altro pianeta, quello della sostenibilità, dello sviluppo intelligente, del rispetto per l'ambiente. Il nostro pianeta, come solo in parte è, ma come potrebbe diventare? Come potrebbe diventare se solo ci provassimo sul serio e con onestà? Ora, per esempio, è tutta la settimana che a Radio 24 ci occupiamo di energie rinnovabili, in particolare di impianti fotovoltaici. E perché? Per i sospetti cui ha dato voce il ministro per lo sviluppo economico, Paolo Romani. È inspiegabile, ha detto, l'impennata di richieste per accedere ai benefici del conto Energia 2010. Il timore è che ci possano essere fenomeni di speculazione, cioè soggetti, come si dice, che probabilmente hanno richiesto i contributi senza la minima intenzione di realizzare alcunché di funzionante. Delle inchieste in corso si è occupata Raffaella Calandra, nelle sue storiacce. Dei rischi di forti aumenti della bolletta elettrica per ripagare gli incentivi sul fotovoltaico si è parlato in Salva Danaio. Insomma, sono tempi cupi per le rinnovabili? Un po' certo, ma non è così categorico il professor Vittorio Chiesa, direttore dell'Energy and Strategy Group presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano. Si sa che esiste questo elemento di speculazione per cui potrebbero una buona parte di queste domande non corrispondere a progetti effettivamente portati avanti, portati a termine dal punto di vista elettrico e strutturale come la legge chiede, però sicuramente è un segno del fatto che la dinamica in atto è, come dire, ha un'accelerazione molto molto significativa. Appunto, la dinamica è di accelerazione comunque sia, e se si rivelasse che a tutte le richieste per incentivi corrispondono cittadini di specchiata onestà, allora saremmo addirittura in anticipo sull'obiettivo di 8 gigawatt al 2020. Saremmo infatti a 7 nel 2011. Non che questo poi ci metta al riparo da altri problemi. La grande preoccupazione ovviamente delle associazioni, degli operatori industriali, è che non ci sia una reazione a questo del tipo: abbiamo sostanzialmente raggiunto gli obiettivi e quindi, come dire, non siamo lontani dal momento in cui gli incentivi termineranno. Intanto però godiamoci la vicinanza degli obiettivi. In fondo, se anche solo il 50% delle richieste fosse per impianti veri, le cose non sarebbero poi così messe male. Non vale altrettanto per altre forme di energia prodotte da fonti rinnovabili, per le quali gli obiettivi sono ancora lontani. Sono gli incentivi a far la differenza, dice Chiesa. Il fotovoltaico è così esplosivo perché ha un sistema di incentivazione certo e premiante, perlomeno per questa finestra temporale, e quindi ha attratto molto. Le altre rinnovabili sono finanziate su taglie, diciamo, più alte, l'eolico sopra i 200 kW, le biomasse oltre il megawatt, in generale, diciamo, oltre il megawatt, tutte le altre fonti, dal meccanismo che è quello dei certificati verdi, che invece in questi anni in generale è soggetto a forte incertezza, è spesso oggetto di correzioni in sede di leggi finanziarie. Tutto questo, al di là dei dettagli tecnici e implementativi, comunque per gli operatori genera un elemento di incertezza. Non è chiaro l'orizzonte temporale di validità di determinati sistemi di incentivazione, assolutamente non chiare le cifre in gioco, e quindi questo pone un elemento di freno. Marino Piasentà è l'ideatore del sistema FEE per la refrigerazione industriale, con cui vinse il premio di Legambiente 2008 per la migliore innovazione tecnologica. Da lì di strada ne ha fatta e ultimamente si è concentrato sulle rinnovabili per le abitazioni. Sembra che l'incentivo faccia la forza, è vero Piasentà? Non la penso proprio così. L'incentivo è stata la conseguenza di una scelta europea. Noi dobbiamo pensare che Le reti di trasmissione della corrente elettrica disperdono lungo il percorso il 64%, cioè noi dobbiamo applicare un coefficiente 0,36. Ora, quando noi facciamo una centrale unica a grande distanza e cerchiamo di trasferire energia, alla casa ne arriverà solo un terzo. Se noi sul territorio diffondiamo tante piccole produzioni di energia, da una casa l'energia passerà all'altra senza avere questa dispersione. L'incentivo che viene dato, se facciamo i conti, corrisponde esattamente a questa dispersione delle reti. Ora, la scelta europea di diffondere sul territorio molti piccoli centri di produzione molto diffusi è la scelta più giusta. Poi, a mano che si abbasseranno i prezzi degli impianti, perché ovviamente diventa anche una logica industriale, più si produce, più i prezzi, come si è dimostrato in questi anni, stanno calando, caleranno anche gli incentivi. Di piccola taglia di successo parla anche il professor Chiesa. L'incertezza negli incentivi non promuove i grandi impianti a biomasse, quelli che producono energia bruciando scarti agricoli o legnosi, per capirci, mentre i più piccoli ce la fanno. Sulle biomasse direi la situazione è analoga. Fanno eccezione gli impianti sotto una certa taglia, è un esempio per esempio il caso del biogas all'interno delle biomasse, che sono tipicamente impianti di taglia appunto sotto il megawatt, perché sono quelli che vengono realizzati presso aziende agricole anche singole piuttosto che magari soluzioni consortili tra aziende agricole, ma comunque sono tipicamente impianti di taglia piccola che invece non beneficiano di una tariffa cosiddetta tariffa onnicomprensiva, che sicuramente è premiante, ripaga rapidamente e ampiamente dell'investimento. Testimonianza di questo il fatto che gli impianti a biogas, in particolare nella pianura padana, quindi dove poi l'agricoltura è praticata in maniera, l'agricoltura e l'allevamento sono praticate ovviamente in maniera importante e intensiva, si sviluppano in maniera molto significativa, mentre gli impianti a biomassa di taglia elevata, siano essi appunto a fonte agroforestale, biogas stesso, eccetera, soffrono il fatto che il meccanismo di incentivazione è incerto e quindi di fatto una situazione di stagnazione. E poi ci sono le assurdità del nostro mondo, quello italiano, che Marino Piasentà, inventore sì, ma anche installatore, conosce bene. In Italia c'è la tendenza a voler mettere delle regole. A me viene in mente la legge piemontese che è sciagurata, dove si pensa che la terra sia piatta. Faccio un esempio. Voler seguire la linea degli architetti e considerare brutta una cosa che magari è di 10 centimetri sporgente rispetto a un tetto è follia pura, perché con quei 10 centimetri di differenza noi limitiamo la produttività di quel pannello solare magari del 15-20%, che vuol dire che nei 20 anni successivi il cliente che avrà speso i soldi per fare quell'impianto, al posto di trarne profitto, ne avrà una perdita. Il problema è che ci si affida per lo studio di queste normative, molto spesso intervengono delle persone che non hanno la competenza e anzi si dichiarano proprio per non essere tecnici. Torniamo dal professor Chiesa e chiudiamo il discorso sulle rinnovabili italiane. A noi è rimasto un dubbio. È davvero solo l'incentivo che fa l'energia o magari anche la resa di un impianto rispetto a un altro? In generale poi l'incentivo tende a essere tarato sul anche tenendo conto di quella che è la producibilità annua e quindi poi l'effetto che l'investitore ha dalla vendita dell'energia che produce. Quindi cioè il meccanismo di incentivazione dovrebbe tenere conto del fatto che, come dire, c'è una componente energia prodotta e c'è una componente invece di sostegno all'investimento. Proseguiamo, formula inedita per questa trasmissione, ma è anche inedita in fondo la multiprogrammazione che Radio 24 ha dedicato al fotovoltaico, con la conversazione che abbiamo avuto con Marino Piasentà. Ci sono molti spunti di riflessione, c'è molta speranza per il nostro paese. E se vorrete scriverne, l'indirizzo è laura.bettini@radio24.it. Abbiamo visto che c'è una stima che per il 2020, all'aumento del costo dell'energia e alla diminuzione del costo del pagamento degli incentivi, il costo dell'energia prodotta con le fonti rinnovabili diventerà conveniente in tutta Europa. Era un discorso che è stato fatto a Bruxelles. In tutta Europa diventerà conveniente attorno al 2020. Visto il progresso italiano, io penso che diventi conveniente attorno al 2014. Progresso tecnologico italiano o anche di interesse rispetto a questo tema? Progresso tecnologico italiano. In Italia, ma in tutta Europa, moltissimi tecnici si stanno dedicando con passione, con eroismo, a costruire nuove macchine, a migliorare l'efficienza, a pensare cose che sono vera innovazione, prima non sono state pensate, e che non rientrano nella logica, neanche nella possibilità di comprensione forse della politica o della burocrazia, ma sono la verità di chi sta lavorando. E questo aumentare l'efficienza e ridurre i costi ci porta a essere sulle energie rinnovabili estremamente ottimisti. In più, più si diffonde, più persone fanno un mestiere, più gente lavora in questo settore e più anche le idee nascono. E poi magari subentra anche il concetto appunto di energia democratica che tu hai introdotto prima, cioè la possibilità per tutti di arrivare. Ecco, quel 64% di energia che viene disperso, che è un costo sociale, un costo ambientale, perché spesso si produce anche da energia di origine, da combustioni chimiche, allora bisogna chiarirla sta cosa, una combustione chimica, bruciare del metano, per un mole di metano noi bruciamo 9 moli di ossigeno. Non è vero che la preoccupazione sia solo il CO2, è che noi nelle città stiamo bruciando ossigeno. Ridurre questa dispersione inutile è fondamentale per risolvere i problemi del nostro paese. In più, tutta questa gente che sta lavorando è la molla per tirarci fuori dalla crisi. È l'unico settore che ha effettivamente un futuro, perché noi andiamo a fare energia gratis laddove prima la pagavamo. Ecco, per riuscire a fare questo percorso bisogna diffondere sul territorio delle microproduzioni di energie elettriche, dove praticamente ogni famiglia, ogni persona sia proprietaria del mezzo per produrre la sua stessa energia. Poi noi siamo qui, stiamo lavorando e a casa nostra magari c'è un pannello solare, noi non lo usiamo, ma quell'energia la prenderà il nostro vicino di casa, la signora Maria, che in questo momento sta facendo andare la lavatrice. Ma resta il fatto che questa è la via assolutamente da percorrere. Non bisogna pensare di fare grandi impianti, ma di farne tantissimi piccoli a spese di chi li acquista, che non gravano più sullo Stato, ma gravano sul cittadino, e il cittadino diventa libero però. A questo punta l'ultimo nato in casa vostra. Una presentazione in anteprima. Ecco, una presentazione in anteprima. La mia intenzione non è fare pubblicità, ma diffondere un'idea. L'ultimo nato, stiamo usando un pannello solare, abbiamo messo degli accessori ai pannelli fotovoltaici per sfruttare il pannello fotovoltaico al 100% e trarne anche tutta l'energia termica, sia d'inverno che d'estate, e aumentando la produzione del pannello solare fotovoltaica circa del 30%. Con la nostra macchina e assorbendo il calore, ogni grado che riusciamo ad abbassare di temperatura al pannello, lui produce un watt in più. E praticamente con la superproduzione di elettrica e il calore che riusciamo a trasferire alla macchina in pompa di calore, abbiamo fatto la macchina gratis per riscaldare, condizionare, fare l'acqua calda sanitaria. È già installata, funzionante, abitata la casa. Quindi è sotto pressione, c'è la riprova insomma del fatto che funziona, sì, c'è la riprova di quello che dicevi tu. La mia è anche un po' una provocazione a tutti i tecnici, perché studino, perché imparino, perché si mettano in questo settore con sicurezza, con buon animo e sapendo che questo è il futuro. Se vi interessa studiarvi il sistema di cui abbiamo parlato, c'è il sito sistemafee.it con due E. Ora ci lasciamo per qualche istante e poi torniamo insieme. L'altro pianeta. Bentornati in studio, l'altro pianeta prosegue ora come di consueto con l'ospite della settimana. Cristina Carpinelli ha intervistato Diego Parassole, attore, artista di cabaret, formatore, comunicatore, in questi giorni impegnato nello spettacolo I consumisti mangiano i bambini. Un po' il tema dello spettacolo è la bulimia dell'acquisto che ci portiamo dietro anche nel cibo, cioè siamo passati dalla bulimia nei confronti del cibo alla bulimia nei confronti dell'acquisto. Io ho sempre cercato di fare cabaret anche cercando di dire qualcosa oltre che di far ridere, e devo dire che c'è un grande stupore, no, da parte delle persone nello scoprire delle cose che io stesso in qualche modo quando ho letto, quando ho scoperto, insomma, mi hanno lasciato magari appunto un po', a volte anche un po' perplesso, no? Ad esempio, ci faccia degli esempi pratici, che cosa anche i nostri ascoltatori magari avranno tempo di riflettere. Mi ha colpito un'affermazione di Paul Roberts in La fine del cibo. In America, ma questo un po' sta succedendo anche in Italia, oramai le macchine siano studiate, pensate, per poter gestire il cibo e le bevande a bordo dell'auto, perché oramai molta gente pranza, cena in macchina guidando. Come mi colpisce il fatto che le grandi aziende del cibo stiano studiando dei tipi, dei formati di cibo sempre più agevoli da portare in mano, in modo da poter mangiare mentre si guarda la televisione, si lavora al computer, quindi si impugna il mouse o si gioca con la PlayStation. Mi colpisce che non so, per esempio, pochissime persone tendano a leggere le etichette dei prodotti, per cui ancora oggi sono tranquillamente in commercio sostanze di cui si è dimostrata la tossicità. Mi vengono in mente gli acidi grassi insaturi, idrogenati, insomma gli acidi grassi trans, che si trovano abitualmente nelle merendine, nei biscotti, anche in prodotti per bambini, pur essendo dimostrata la loro tossicità. Per esempio, già adesso in America ci sono casi di bambini che sono nello stesso tempo rachitici e obesi, che vuol dire che assumono una quantità pazzesca di calorie e nello stesso tempo però non hanno abbastanza elementi nutritivi vitali come le vitamine, in questo caso la vitamina D. Sono cose che un po' colpiscono, insomma. Un bel po' colpiscono. Spesso quando si affrontano argomenti di questo genere, se si assumono delle posizioni si viene tacciati, insomma, ad essere degli estremisti. Si lavora molto più spesso per il consumo per il consumo e non il consumo per la qualità della vita. Io credo che sia fondamentale ritrovare una certa etica, nel senso che la prima regola del mercato dovrebbe essere quella di non uccidere i tuoi clienti, cosa che in alcuni casi succede con prodotti che in qualche modo non fanno benissimo. Io su questo purtroppo non ho ancora trovato dei dati definitivi, è una cosa di cui si parla veramente molto poco in Italia, e l'ho trovata appunto su un paio di libri, fra cui La fine del cibo, che già citavo prima, ma anche Il dilemma dell'onnivoro di Michael Pollan, libri di cui, se mi permette, consiglio la lettura veramente a tutti gli ascoltatori. Si parla per esempio dell'HFCS, cioè lo sciroppo ad alta concentrazione di fruttosio, che viene oramai normalmente usato come dolcificante in molte bibite, nelle merendine, eccetera, e che pare che molte aziende usino, soprattutto perché, visto che sembra che il fruttosio non arrivi a dare il segnale di sazietà al cervello, beh, tutto questo induce il consumatore a continuare a mangiare. Ma tutto questo, purtroppo, bisogna incominciare a dirlo, è vero, magari danneggia il mercato, ma ha un impatto sull'ambiente. Le faccio un esempio: se uno guarda i dati di impatto ambientale della carne, scoprire che gli allevamenti di bestiame producono a livello di cambiamenti climatici un impatto superiore a quello di tutto il parco auto circolante, e scoprire anche che la carne in grosse quantità è dannosa. Io non sono mai stato vegetariano, no? Il vegetariano puro integralista a volte viene guardato un po' con sospetto, no? Cioè, della serie chiudi il cancello del giardino perché arriva questo qui e mi bruca le rose, ecco, robe di questo tipo. Se guardiamo che il consumo massimo di carne è consigliato circa 25 kg all'anno a testa. In Italia ne consumiamo 80-85. La carne in eccesso oramai è purtroppo dimostrato fa male, causa problemi cardiaci, circolatori e tutto. Fa un danno all'ambiente. Se lei considera che con quello che diamo da mangiare agli animali d'allevamento si potrebbero sfamare circa 20 miliardi di persone e che in questo momento ci sono circa 1 miliardo di persone al mondo che soffrono la fame, forse cambiare un po' i nostri consumi può avere un impatto. Resto, vieni qui, ma su, non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì e comportarti da persona civile. Hey! Insegnerò l'amore, a recitar le preghiere, ad amare la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è e poca sta appena per me, perciò smettetela di protestare. E non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Hey! Grazie a Cristina Carpinelli e benvenuto a Marco Carminati, curatore della nostra rubrica Articolo 9, come l'articolo 9 della Costituzione italiana che recita: la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio artistico e storico della nazione. Un cordiale saluto da Marco Carminati, buongiorno a tutti. Siamo anche oggi in collegamento con Giulia Maria Mozzoni Crespi, fondatrice del FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, e oggi presidente onorario. Buongiorno presidente. Buongiorno. Oggi restiamo di nuovo in un'area lombarda, il Parco Agricolo Sud. Che cos'è esattamente il Parco Agricolo Sud e dove si trova? Il Parco Agricolo Sud è una cintura verde attorno a Milano di 47.000 ettari, mentre il comune di Milano di questo ne possiede 4.200 ettari. Ma l'importanza del Parco Agricolo Sud è enorme per varie ragioni, perché è zona di ossigeno. Poi perché è una zona dove si può creare la cosiddetta filiera corta. Dobbiamo smettere di poter mangiare i pomodori che arrivano dalla Cina e i kiwi che arrivano dalla Nuova Zelanda. Il Parco Agricolo Sud ha all'interno del suo parco 1024 terreni agricoli e 393 aziende zootecniche, per cui è un grosso serbatoio di agricoltura. È un luogo dove i cittadini possono andare, presidente? Certo, dovrebbero poter andare, ma ovviamente i mezzi pubblici sono piuttosto scarsi. Vorrei aggiungere che in questo parco agricolo c'è un'arte meravigliosa, ci sono 4 stupende antiche abbazie di Meresole, di Chiaravalli, che è un gioiello dell'epoca, l'abbazia di Viboldone, l'abbazia di Morimondo, dove tra l'altro Abbado 2 mesi fa tenne un meraviglioso concerto per il FAI, e i milanesi che vi andarono rimasero stupiti nello scoprire Morimondo. Certo. Ma il grande pericolo che c'è sul parco è proprio il fatto che parecchi privati hanno comperato moltissimi terreni, per cui gli affittuari hanno i loro affitti ridotti a pochi anni, perché c'è sempre il pericolo che il proprietario mandi via l'affettuario e faccia la sua speculazione edilizia. A parte questo, c'è la faccenda del Cerba, il quale Cerba negli ultimi anni ha occupato 30 ettari di terreno per costruire un centro per il cancro e tutte quelle cose annesse con Dessaloieo, ma lì accanto si affiancherà un parco attrezzato di 30 ettari, dotato anche qui di parcheggi, per cui lentamente si sta erodendo da tutte le parti questo verde, questo luogo dove può produrre cibo. E difatti i cittadini forse ignorano che ogni giorno in Lombardia sono stati urbanizzati 13,5 ettari di suolo. Dall'altra parte noi leggiamo che le derrate alimentari cominciano a scarseggiare nel mondo. Il prezzo del grano è aumentato, mi sembra, dell'80%. Tutto il Nord Africa si sta ribellando per i prezzi delle derrate alimentari, ma noi invece favoriamo il cemento e non aiutiamo i coraggiosi agricoltori. Insomma, questo parco sarebbe un tesoro non solo di ambiente, di relax, ma diventerebbe anche il polmone del cibo dei milanesi. Io spero, Presidente, che questo suo accorato appello venga ascoltato e che le sue parole non cadano nel vuoto, perché sono tra l'altro sostenute da dati e da conoscenza diretta dei fatti. La ringrazio molto per la partecipazione. Posso aggiungere che sì. Come fai, nel mese di marzo apriremo anche un pubblico denuncia e dibattito su questi fatti, daremo una radiografia della situazione ai giornali e ai milanesi per renderli coscienti. Grazie Presidente per questo suo accorato appello, per l'impegno che lei quotidianamente mette nella difesa di questi valori, che sono valori di tutti e per tutti, e saluto tutti gli ascoltatori cordialmente. Siamo in conclusione, grazie per averci seguito fin qui. Vi ricordiamo l'ultimo appuntamento della settimana su Radio 24 con il fotovoltaico. Questa sera alle 20:15 con Voci d'Impresa, cura di Alessandra Scaglioni. Ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora.